Sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera, buonasera a tutte, ben sintonizzate, siamo ancora una volta qui a farci compagnia. Quella che ascolterete stasera è la 161esima trasmissione del coordinamento lesbiche romane e stasera in studio ci siamo io, Rosina, Monica. Ciao a tutte. E naturalmente la splendida Caterina che ancora una volta si è immolata sull'altare per prestarci il suo supporto tecnico. Allora, stasera parleremo di un argomento che riprende del microfono anche perché Caterina mi sta dicendo che mi sono presa il suo microfono, giustamente. Allora, l'argomento... Devo parlare nel microfono? Adesso, ecco, Caterina mi sta tirando le orecchie, però è sempre un piacere. Dunque, stasera parleremo di un tema, di un argomento che abbiamo già inaugurato proprio io e Monica qualche tempo fa con una trasmissione dedicata alla madre di tutte noi. Abbiamo deciso di chiamarlo così, un termine un po' altisonante comunque. E nell'altra trasmissione, nella scorsa trasmissione, parlammo di Sibilla De Ramo e della sua storia d'amore con Lina Poletti. E allora avevamo dichiarato la nostra intenzione di costruire insieme una nostra genealogia, cercandoci e raccontandoci quelle antenate che insieme, a volte anche contro quelle che le hanno precedute, sono riuscite per loro e per noi a dare parola al loro lesbismo. Stasera cercheremo di tracciare, certo in maniera molto sommaria, la storia di una grandissima madre, Virginia Woolf. Non c'è bisogno di dire nulla, io credo, su Virginia Woolf, vero Monica? Qualcosa diremo tuttavia. E della sua relazione con Vita Sackville West. E quindi ci aspettiamo le vostre considerazioni, speriamo che siano numerose e intense. E vi ricordiamo che avete la possibilità di... Anzi, stasera vi ricordiamo che non ce l'avete questa possibilità, perché purtroppo... Invece mi dicono che stasera la possibilità c'è, qui le cose, il bello della diretta, vanno e vengono, perfetto. Allora, solo per questa sera, mi dicono, potrete inviarci i vostri sms a un altro numero di telefono, ve lo diamo, è il 340-341-8830. Ve lo ripeto, 340-341-8830. Potete inviarci solo per questa sera e mai più vi si ripresenterà questa occasione, poi basta, è morto, è defunto, potrete mandarci appunto i vostri sms. Se invece volete scriverci, potete farlo indirizzando una vostra mail a contatti@clrbp.it, ormai lo saprete a memoria, oppure ci potete scrivere al CLR presso il Centro Femminista Separatista in via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Adesso però ascoltiamo insieme il primo brano di questa serata, un pezzo di Joan Baez tratto dall'ultimo LP che si chiama Big Dark Chord on a Big Guitar, scusate il francese orribile. Il pezzo si chiama Motherland. Thank you. Allora, vi ricordo ancora che soltanto per questa sera, mi raccomando, perché è un numero di stra emergenza, i vostri sms possono arrivare al 340 341 8830, solo stasera, mi raccomando. Allora, iniziamo ad entrare in questa meravigliosa storia, questa meravigliosa avventura, anche con il suo dolore, ma anche con la sua bellezza e con il suo grande amore che ci viene raccontata da queste donne. E vi ricordo solo brevissimamente chi è Virginia Stephanie Woolf, visto che è veramente una grande madre di tutti noi. Nacque a Londra il 25 gennaio 1882 in una famiglia colta e borghese. Il padre, Leslie Stephen, fu professore al Trinity Hall a Cambridge. La madre, Julia Jackson, nota per la sua grande bellezza, che evidentemente è passata in parte anche alla figlia insieme al fascino, si dedicò a lungo alla cura di poveri e malati. Quella di Virgilia fu una vita segnata da una fragilità di fondo, dovuta alle vicissitudini infantili, all'incestuoso affetto per i fratelli, alla scomparsa prematura della madre, al padre dispotico. Ma tutto questo legato, come sappiamo, a uno straordinario talento e a una forma di follia intermittente, che tuttavia non ha impedito che Virginia divenisse una delle maggiori autrici della letteratura inglese moderna. Insieme con la sorella Vanessa fu l'ispiratrice del gruppo di Bloomsbury, una elite di intellettuali che con la propria genialità contribuirono a modificare sostanzialmente l'epoca vittoriana. Come sappiamo, era anche sposata con Leonard Woolf, che la protesse e cercò fino all'ultimo di salvarla dalla follia. Era circondata da amicizie importanti, Lytton Strachey, Roger Fry, Catherine Mansfield, Ethel Smith ed altri ancora. La Woolf produsse alcune delle più belle pagine della letteratura del Novecento in un continuo sforzo di ricerca interiore e stilistica. La sua lucidità di giudizio si esprime soprattutto nelle conferenze, per esempio nei saggi politici come Le Tre Guinee, in cui dimostra che alla radice di ogni cosa c'è il potere garantito dalla violenza, stesso meccanismo che produce sia il patriarcato che il fascismo, alienando uomini e donne. Virginia, che già in passato aveva più volte tentato di togliersi la vita, si annega il 28 marzo del 1941 nel fiume House. Il rapporto più significativo di Virginia, al di fuori della sua cerchia familiare, fu appunto la sua relazione con l'aristocratica Vita Sackville West, che era nata nel 1892 e morì nel 1962. Vita era una poetessa, una romanziera, una biografa e oltretutto una grandissima esperta di giardinaggio. Scusate un piccolo rientro, vabbè, sono cose che capitano, è bello della diretta, non abbiamo detto. Allora, Vita, secondo Virginia, ricordava vagamente un setter di razza pura, è un'immagine bellissima, dalla linea squadrata e dal pelo corto. Era una donna molto molto eclettica, stravagante, non si curava delle convenzioni, era molto intelligente e anche molto prolifica. E Virginia diceva di lei che scriveva con una penna di ottone, però i suoi libri comunque riscuotevano un grandissimo successo. Era, riguardo al suo lesbismo, molto spregiudicata e per un certo periodo abbandonò il marito Harold Nicholson, omosessuale anch'egli per la cronaca, e per fuggire in Francia insieme a Violet Trefusis, che era la sua amante del momento. Quindi Vita girava per Parigi e per Londra vestita da uomo, fumava sigarette a Piccadilly Circus, comprava i giornali da uno strillone e lo strillone la chiamava signore, oppure prenotava una stanza per la notte per sé e per Violet, presentandola addirittura come sua moglie. E a Parigi aveva vissuto praticamente in questo ruolo, scurendosi le mani, il viso, fasciandosi la testa, facendosi credere addirittura un reduce di guerra e sfidando ogni poliziotto che incontrava. La relazione con Violet Trefusis era già finita quando nel 1922 Virginia e Vita si incontrarono per la prima volta. Ma fu nel 1924 che si innamorarono e cominciarono a frequentarsi e a scriversi assiduamente. La loro fu un'avventura piena di amore, di aspettative e di speranze, documentate da quasi 400 lettere che sono giunte fino a noi. Lettere che Virginia scrisse a Vita in poco meno di 20 anni di amicizia. Le prime impressioni di Virginia su Vita sono riportate in una lettera scritta ad un amico. Una nobile aristocratica di nome Vita Sackville West, figlia di Lord Sackville, figlia di Knoll, moglie di Harold Nicholson e scrittrice. Ma la cosa per cui merita davvero considerazione sono, se posso essere così prosaica, le sue gambe. Oh, sono stupende. Si slanciano come esili colonne verso il tronco, piatto come quello di un corazziere, eppure ha due figli. Ma tutti in lei. È virginale, selvaggio, patrizio. Per vita, Virginia era semplicemente il genio gentile, bella, idolatrata e lontana. Nel 1923, dopo la sua prima visita a Hogarth House, la casa in cui Virginia e il marito Leonard avevano avviato una casa editrice, appunto, la Hogarth Press, Vita scrisse al marito: «Amo la signora Wolf di una insana passione». Nel corso del 1925 Vita e Virginia si avvicinarono sempre di più. In una lettera del 15 settembre di quell'anno Virginia rimprovera a Vita di non essere passata a casa sua. «Oh, scandalosa canaglia, venire così vicino a questa casa e andare via. Quando la cuoca è salita da me con la tua lettera, i tuoi fiori, il tuo giardino, raccontando che una signora aveva fermato un ragazzino in paese e glieli aveva consegnati, ero così furibonda che quasi ti inseguivo in vestaglia». Tre giorni dopo, il 18 settembre, Vita rispondeva così: «Mia cara Virginia, sei una persona molto, molto notevole. Ti assicuro che è stato un tormento fermare l'anonimo ragazzino del villaggio e trasformarlo nel mercurio che sarebbe finalmente arrivato alla tua cuoca, che sarebbe finalmente arrivato a te. Non è stato egoista, vero? E poi, a essere sincera, avevo paura di Leonard. So che avrebbe avuto un'aria di disapprovazione se fossi comparsa io in casa». A novembre il marito di Vita, Harold, che lavorava in quel periodo per l'ambasciata britannica, partì per Teheran e il 17 dicembre Virginia andò a stare ben tre giorni con Vita a Longbourn. E qui cominciò la loro storia d'amore, quasi senza ansie da parte di Virginia e tantomeno sensi di colpa da parte di Vita, che anzi più volte alluse a questa loro relazione nelle sue lettere al marito. Però premurandosi sempre di mettere in secondo piano l'aspetto della passione fisica, perché in realtà il rapporto fra Vita e Virginia fu un rapporto molto particolare, durato sì 20 anni, ma un rapporto che sicuramente era scevro da questa passione fisica profonda che spesso invece accompagna i rapporti di questo tipo. E Vita aveva paura di suscitare emozioni troppo violente in Virginia per via del suo stato mentale. E così scriveva ad Harold il 17 agosto del 26: «Non so che effetto sortirebbero, capisci? È un fuoco con il quale non mi va di scherzare affatto. Ho troppo affetto vero e rispetto per lei. E poi lei non ha mai convissuto con nessuno, tranne Leonard, che è stato un fallimento, sicché hanno smesso subito. Infine, Virginia non è la persona a cui si pensa in quel modo lì. V'è anzi qualcosa di incongruo, indecente in questa idea. A letto con lei ci sono andata, sì, 2 volte, ma questo è tutto». E quindi Vita dimostra in questo una grandissima saggezza, una saggezza veramente notevole, dettata anche dal fatto però, e lo dobbiamo sottolineare, che già in quel periodo l'intensità della relazione con Virginia era scemata. E poi c'è anche da sottolineare questo aspetto peculiare della sua personalità: lei era molto facile alle relazioni clandestine e infatti in quel periodo più che altro si incontrava con la sua amante extra di turno, la Dorothy Wellesley. Concerne Virginia invece, l'idea di una relazione lesbica, qualunque cosa accadesse a letto, la entusiasmava. E se con Leonard era cauta, con la sorella Vanessa era addirittura sbruffona. Parlava di Vita come della sua amante, pregustando le notti da sola con lei, rimproverava la sorella che si sottraeva al suo fascino. E infatti, in una lettera a Vanessa, appunto la sorella, del 22 maggio 1927, Virginia scriveva: «Non soccomberai mai di fronte alle grazie di uno del tuo sesso. Che arido giardino deve essere il mondo per te. Nient'altro che viali lastricate e balaustre di ferro. Anche se rispetto grandemente la mente maschile, non riesco a trovare però in loro un'unghia di mignolo di fascino. Lo scenario del mondo non acquista lustro dalla loro presenza. Naturalmente essi contribuiscono immensamente alla sua dignità e sicurezza, ma se si vuole un po' d'avventura... Ma come sarà stata veramente la loro avventura, ci chiedevamo. Vita e Virginia sono molto avare nel descriverci i sentimenti, le sensazioni, i ricordi che hanno segnato, attraversato, caratterizzato la loro storia d'amore. Allora noi facciamo una piccola forzatura e per provare a immaginare il non detto ci facciamo aiutare dalle parole di una scrittrice italiana purtroppo dimenticata, Fausta Cialente, spesso rintracciabile nei cataloghi delle biblioteche come Fausta Terni Cialente, che è nata a Cagliari nel 1898 ed è morta a Londra, giusto appunto, in Inghilterra nel 1994, e che nel 1930, quindi diciamo quasi in contemporanea alla scrittura e alla relazione alle lettere delle nostre, riceveva da una giuria a cui apparteneva il ben più noto Massimo Bontempelli un premio per un romanzo intitolato Natalia, che è praticamente scomparso dalla memoria letteraria della nostra cultura e che ha subito un sacco di censure e di problemi proprio perché partiva da una storia lesbica. La protagonista della vicenda, Natalia appunto, iniziava la propria educazione sentimentale con una relazione lesbica con l'amica d'infanzia Silvia. Ed ecco come la Cialente descrive lo sbocciare del loro amore. Il fuoco commise una sciocchezza. Morì. Il fuoco spento nel caminetto si era acceso in lei. Le bruciava le vene, le scottava le ciglia. L'immobilità di Silvia era un invito che la attirava come un gorgo. Non fu meravigliata quando s'accorse che le sue dita, più rapide della sua volontà, avevano giocato nell'apertura della vestaglia bianca, ma le sue mani dovevano essere ben fredde, giacché il tepore dei dolci seni le fu tanto gradevole. Li trovò insieme rigidi e flessuosi. Pensò: ecco, se ora dovessi raccontare questo, lo racconterei con parole straordinarie. Non poteva vedere che gli occhi di Silvia erano velati perché gli ultimi bagliori chiazzavano appena l'orlo della sua veste e non seppe mai come fu che baciandola poté lentamente rovesciarla sul tappeto. La Vergine era matura, come un frutto, era caduta, molle, sul tappeto. Natalia, che non aveva voluto proprio questo, fece di lei quello che aveva confusamente sognato di fare. L'altra conobbe sola tutta la sua felicità. Dalla carne che il piacere irrigava si levò come un'onda la riconoscenza, ma Natalia non poteva capire. Ella ignorava d'esserne la causa e forse non avrebbe voluto andare così lontano. Le sue mani non percepirono nessun brivido alla fine. Avevano toccato il segreto della immobilità, ma avevano perduto l'aroma del frutto innocente e sentiva contro i piedi caldi raffreddarsi anche gli alari del caminetto. Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Stiamo sentendo Mercedes Sosa, una grandissima cantante latinoamericana, argentina, in Todo Cambia. Cambia, todo cambia. subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo. E tutto cambia, tutto cambia, anche per le nostre due care Vita e Virginia. Nel 1927 Vita infatti partì per la Persia, mentre Virginia era impegnata nella scrittura di quello che sarà il grandissimo Gita Alfaro. Il 18 febbraio del 1927 Virginia scriveva a Vita: «Dolce Honey, sì, ti desidero sempre di più. Ti farà piacere, lo so, pensarmi infelice. Bene, fallo. Morgan, Forster, dice che ci ha pensato e ha capito che si dedicano 3 ore al cibo, 6 al sonno, 4 al lavoro, 2 all'amore. 10 all'amore, dice Lytton Strachey. Tutto il giorno all'amore, dico io. Io dico che è vedere le cose attraverso un'ombra purpurea. Ma tu non sei mai stata innamorata, mi dicono. Eppure Vita, al suo ritorno da Teheran, il 5 maggio, scriveva a Virginia: adorata, adorata Virginia, sembra incredibile che ti vedrò domani. Comunque in questo periodo Vita e Virginia si frequentavano ancora con una certa assiduità, anche se questo non impedì a Vita, della cui, come dire, indipendenza sentimentale, chiamiamola così, già Rosina ci ha dato una grande descrizione, non impedì, dicevo, a Virginia di innamorarsi di Mary Campbell, che era moglie del poeta sudafricano Roy Campbell. E sempre in questo periodo Virginia maturò l'idea di scrivere un libro su Vita, che sarà niente po' di meno che Orlando, la più lunga lettera d'amore scritta all'amica. Nel frattempo la relazione con Mary Campbell, che Vita aveva cercato naturalmente di nascondere a Virginia, continuò ad andare avanti, ma alla fine, il 10 novembre del 1927, Vita in lacrime le confessò tutto e la mattina dell'11 le scrisse: sono stata così infelice dalla notte scorsa, ho sentito all'improvviso che tutta la mia vita era un fallimento. Ascolta però, e credi che tu significhi qualcosa di assolutamente vitale per me. Non esagero quando dico che non so cosa farei se tu smettessi di volermi bene. Tesoro, perdona i miei difetti, anch'io li odio in me stessa e so che hai ragione, ma sono stupide cose, superficiali. Il mio amore per te è assolutamente leale, vivido e inalterabile. E su questa promessa Virginia rispose la sera stessa: Sono gelosa quando ti vedo con le varie Mary e Valerie. Questo dallo per scontato. È tutto quello che c'è da dire per quanto mi riguarda. Sono felice di sapere che tu tieni a me, perché spesso sembro vecchia, irritabile, querula, difficile, seppur affascinante. E comincio a dubitarne. Ma finiamola con queste lagne. Ti abbraccio, mio dolce tesoro. E infatti, sulla scia di quanto detto, mentre Virginia proseguiva la stesura di Orlando, Vita si recò a Berlino e lì, guarda un po', conobbe Margaret Voigt, una scrittrice americana che divenne naturalmente la sua amante, naturalmente, e che Vita addirittura arrivò a raccomandare a Virginia come traduttrice dei suoi libri. Nell'estate del 28 Virginia terminò finalmente Orlando e Vita invece terminava le sue relazioni con Mary e con Margaret, con grande delusione per le due donne, ma non per lei, che naturalmente aveva trovato in Hilda Matheson, che lavorava alla BBC, una nuova amica, e viva la faccia. Della relazione fra Virginia e Vita in questo periodo si può quindi dire che Virginia amava ancora Vita, Vita adorava Virginia e però era abbastanza distratta dalla concorrenza di altre donne. Nel 29 la loro relazione comunque subì uno scossone piuttosto forte, anche a causa di un viaggio che Vita aveva fatto in Savoia da sola con Hilda Matheson. Virginia si ingelosì naturalmente, anche perché Vita, con una, come dire, spiccata faccia di bronzo, sottopose alcune poesie d'amore che Virginia sapeva essere state scritte per un'altra delle sue amanti, la famosa Mary Campbell di cui prima, e le aveva sottoposte appunto alla casa editrice di Virginia e Leonard, la Hogarth Press. Durante gli anni 30, seppure scrivessero entrambe di mancarsi l'una all'altra moltissimo, davvero, Vita e Virginia si frequentarono ben poco, però dalle loro lettere continuano a trasparire l'affetto e la tenerezza che le legano. Potto, che era il nomignolo di Virginia, scriveva a Vita nel 1933: baci da Potto e 10 scellini per comprargli le scarpe e un cappello da contadina. Dio, come sono stata felice di vederti. E Vita rispondeva: davvero, signora Wolf, credo che lei abbia dato a Potto una pessima educazione per consentire che mandi 10 scellini ad una vecchia amica per un paio di scarpe. Per sottolineare la mia disapprovazione li ho incassati e inoltrerò la somma al locale club di cricket, ma non dimenticherò le scarpe di Pott. E ancora nel 35 scriveva Virginia: ho voglia di un'avventura, mia adorata creatura, ma vorrei accordarmi su almeno 48 minuti e mezzo sola con te, non per dirti o fare qualcosa di particolare, puro affetto, in memoria del delfino nella vetrina rosa. E il delfino rosa era il nomignolo di Vita. E prosegue Virginia: sono stata sepolta sotto la polvere e i rifiuti, ma adesso arriva la primavera, la mia mente continua a sognare incontri romantici. Ti ricordi quella volta a Kew, che eravamo sedute in quel temporale viola? Fammi sapere e amami sempre meglio, aggiungi un piolo alla scala e fammi salire. E visto che loro, come sempre, sono piuttosto parche, anche se si capisce qualcosa, insomma, dalle loro parole, di quello che c'era sotto, proseguiamo con la lettura di Natalia e vediamo come Natalia cerca e trova ancora una seconda volta la strada per la camera della sua amante Silvia. Quando passò davanti all'uscio della camera di Silvia, lo vide aperto e accostato. Durante il giorno, ella aveva provato di forzarlo e l'aveva trovato chiuso, ne era ben certa. Ora, filtrava la luce triste e ondeggiante della candelina che Silvia accendeva la notte davanti alle immagini sacre. La fuga si arrestava là. Rapidamente, Natalia smorzò tutti i lumi della sua camera e, come nelle favole, si lasciò guidare al buio dalla piccola luce. La candelina oscillava davanti all'immagine sacra, oscillava, oscillava. Era la terza notte di Natalia in provincia. All'alba si spense. All'alba Natalia perse gli occhi. Silvia dormiva, puntò il gomito sul cuscino e si levò un poco a guardarla. L'avrebbe baciata tutta se avesse potuto baciare le sue palpebre livide. I fianchi mostravano superbi e possenti il rosario sanguinante fatto dalle sue unghie in delirio, piccole frecce vermiglie come i raggi del sole che stava per nascere. Natalia non aveva freddo, ma rialzò le coperte temendo che ella avesse freddo. Aveva imparato Molte cose, prese nella rete morbida della casa provinciale. Aveva creduto di meravigliare con i suoi gesti audaci e le parole straordinarie, ma non aveva insegnato nulla. E se ne stava, meravigliata, a guardare la bella che dormiva così piena di gioia, nel sonno calmo. Le faceva paura. Svegliandosi forse l'avrebbe divorata come un dolce di miele per quietare la fame. Anche durante la notte era stata, anonima e invisibile, una bestia vorace. I suoi lunghi capelli ingombravano il cuscino. Natalia vi posò la faccia e dolcemente si addormentò. Se mi lasci ti tradisco, sì. Ma se dormo sul tuo petto di amarti io non smetto, no. Tu stupendo sei in amore, sensuale sul mio cuore, sì. Se poi strappo un tuo lamento, è importante questo mio momento, perché io ti chiedo intrometto, ed è quasi imbarazzante parlare dopo una canzone del genere, dopo tutto quanto abbiamo ascoltato fino adesso. Allora, io sono convinta che l'abbiate riconosciuta, era Mina con il brano Ancora, Ancora, Ancora. e mi veniva da sorridere prima perché quegli scambi di lettera sembrano quasi bigliettini che noi lesbiche ci lasciamo, no? Amore, torno lì, i post-it attaccati. Loro sicuramente hanno molte più capacità letterarie di noi. Comunque, vi ricordo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane all'interno dello spazio autogestito femminista e lesbico di Radio Onda Rossa sugli 87.900 MHz. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Anche oggi aspettiamo tanti segnali da parte vostra, anche attraverso l'utilizzo dei trillini. Quindi utilizzate il telefono della radio, che è 49 17 50, oppure soltanto per oggi potete mandarci un SMS al 340 341 8830. Aspettiamo vostri, grazie per i trillini che stanno arrivando in questo momento, messaggini ne aspettiamo. Io ve lo ridico un'altra volta, il numero del cellulare che potete usare soltanto per questa trasmissione di emergenza è 340 341 8830. Allora, siamo a questo punto arrivate alla fine degli anni 30 e gli eventi per Virginia cominciano a precipitare e la follia, che è stata il tratto caratteristico della sua esistenza, comincia a farsi più accentuata. Questo perché per via dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, della morte del suo amatissimo nipote Julian, che lo ricordiamo morì guidando l'ambulanza, perché lui voleva comunque partecipare, voleva combattere contro il nazismo, ma non voleva però farlo come un soldato, quindi lo fece a modo suo guidando l'ambulanza della Croce Rossa, ma saltò su una bomba, quindi morì. E a tutto questo si sommava anche il terrore che Virginia provava per il marito, che ricordiamo era ebreo. Tra l'altro Leonard e Virginia avevano anche deciso, qualora si rendesse necessario, di avvelenarsi insieme con il monossido di carbonio. Infatti avevano una scorta di benzina nel loro garage, tra l'altro trovata con estrema difficoltà visto il momento. E quindi avevo detto, in questo momento tutti questi elementi contribuiscono appunto a peggiorare lo stato mentale di Virginia. E Virginia scrisse due biglietti lucidissimi, uno a Leonard e l'altro alla sorella Vanessa, e dopo averli lasciati sulla mensola del camino in casa si dirige verso il fiume Aus e si annega il 28 marzo del 1941. E nell'ultima lettera che invece Virginia scrisse a vita, questo sei giorni prima di morire, si avverte quasi un presagio sottile. Virginia scriveva così: guarda questa lettera mandata al New Statesman, indirizzata a signorina Virginia Woolf. Che strano trasferimento di pensiero. No, non sono te. No, non allevo cocorite. Quelle di lui sopravvivono, eppure le nutre di avanzi. Immagino siano animali di bassa estrazione. Se veniamo da te, potrei portargliene un altro paio, sempre che siano ancora vive. Muoiono tutte in un attimo. Quando verremo? Dio solo lo sa. Come reagì Vita? Il 31 marzo scrisse al marito Harold: ho appena avuto il più terribile colpo, Virginia si è uccisa. Non c'è niente nei giornali, ma ho ricevuto lettere da Leonard e anche da Vanessa per avvisarmi. Lui dice che nelle ultime settimane non stava bene, era terrorizzata l'idea di impazzire di nuovo. Non riesco a capacitarmene. Quella mente stupenda, quello spirito stupendo, l'ultima volta che l'ho vista sembrava stare così bene. E molti anni più tardi, in un'altra lettera, Harold dice: Insisto a credere che avrei potuto salvarla se solo fossi stata sul posto e avessi saputo lo stato mentale in cui stava affondando. Alcuni mesi prima di morire, intanto, Virginia aveva annotato sul suo diario: Vita ha in mano l'esistenza, conosce le piante, la loro mente, il loro corpo, fa colazione col principe Bernard ed è in generale indolente, abbondante, del tutto priva di quell'odore stantio di cucina che hanno i piccoli artisti. Grande e tollerante e modesta, tiene dolcemente in mano tante redini, figli, Harold, parco, fattoria. È anche spiritosa e capace di un affetto profondo, voglio dire, maldestro e silenzioso. Sono felice che il nostro amore abbia resistito così bene. Forse Vita e Virginia avrebbero siglato la loro storia con le stesse parole trepidanti con cui, appunto, la Cialente, di cui abbiamo già letto due passaggi, con le stesse parole, dicevo, che la Cialente regala alla sua Natalia. E sentiamole dalla splendida voce di Rosina. I fidanzati in campagna passano la giornata a tenersi dal mignolo e a tacere. Questo è il significato della parola felicità. Ella ha tenuto Silvia con le mani, con le braccia, con tutto il suo corpo. Silvia è la felicità stessa, ma fuori, come il cielo è fuori della finestra. Natalia crede di aver imparato l'amore come una lezione che bisogna ripetere senza arrossire. Vorrebbe dire a Silvia: la primavera è dietro l'uscio, o forse io e te siamo la primavera. La tua voce mi ha gettato in fondo al lago dei tuoi occhi e nell'acqua non potrò fiorire. Ho paura di te che prendi gioia e non la dai, della tua saliva che deve essere filtro, della tua camicia che deve essere stregata. Ho voglia di gridare, Silvia, alla notte, come se le annunciassi un terremoto, e mi vergogno di entrare nella tua casa, come se tu avessi tradito qualcuno per me, e invece sono io che ho tradito per te. Se mi dicono guardala, vorrei rispondere: io la amavo così, anche quando era piccola, e mi pare che la mia fedeltà debba allontanare gli altri fin dal tuo passato. Nessuno di loro vale uno dei tuoi cigli. Non mi hai detto mai se mi ami, non te lo chiedo, ma ti prego di non dire che non ti amo, perché dovrei crederti e non saprei più che cosa fare di questo cuore consumato e ritorto e bruciato, dove fai colare un sangue rosso del rosso di tutto il mondo. Tu non sai che quando sono finita io devo ricominciarmi, tutta sola. Ho sognato che ero molto povera e vendevo fette di cedro candito all'angolo di una grande piazza. Tu passavi, lo portavi via tutto, senza darmi nemmeno una piccola piastra, e io rimanevo più povera di prima, ma beata, con le dita appiccicate insieme dallo zucchero. Le mie lacrime cadono di dentro. Per questo non le vedi e puoi guardarmi e sorridere. Apri la finestra, Silvia, se non credi al mio amore, e vedrai che ho scritto il tuo nome su tutti i muri della città. Mm-hmm. gli appuntamenti. Ed eccoci agli appuntamenti, naturalmente partiamo dalle nostre iniziative perché, come dire, il diritto di prelazione visto che giochiamo in casa. E allora siamo felicissime di vedervi tutte quante sabato 30 aprile, ore 19, quando CLR, CLI, CLI, CFS, cioè, organizzeranno presso il Centro Femminista Separatista di Roma, ricordatevi via San Francesco di Sales 1B, la presentazione insieme a Monica Maggi del volume Cocktail d'Amore, 700 e più modi di essere lesbica. Saranno ospiti Nicoletta Buonapace e Rosa Conti, che sono appunto del gruppo Soggettività Lesbica della Libera Università delle Donne di Milano, che è anche diciamo l'organizzazione promotrice di questo libro. E a seguire, naturalmente, poche cose ma buone, cioè Semagna, chiacchiere e musica. L'evento è naturalmente aperto a sole donne. Per informazione potete come al solito utilizzare i nostri recapiti, ve li ripeto. Centro Femminista Separatista 0668 64201. Email contatti @clrbp.it, sito www.clrbp.it. E invece il 14 aprile alle 21, sì, alle 21 presso l'Unione Femminile Nazionale di Milano, in corso Porta Nuova al numero 32, nell'ambito della manifestazione Teatralie ci sarà una rassegna di letture teatrali e saranno in scena Eleonora Dall'Ovo e Franca Villa con Cieli di Guerra. Un itinerario tra parole e immagini che si snoda tra i conflitti in atto, proponendo storie che descrivono frammenti di vita quotidiana in diversi scenari di guerra. La rassegna proseguirà il 19 maggio con Le donne di Pirandello, Amore e Sesso, interpretate stavolta da Lisa Ferrari, mentre il 16 giugno si proseguirà con Le vicende di Boffer Binks, raccontate da Franca Villa in Alta Tensione. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21, l'ingresso è gratuito. Per le informazioni potete contattare l'Unione Femminile Nazionale in corso Porta Nuova a Milano allo 0265722269, 0265722269, oppure potete inviare una mail a iniziative@unionefemminile.it, oppure potete anche visitare il sito web www.unionefemminile.it. And I don't like to hear 'em wrong when I'm right. And I don't like to have the rain on my shoes, but I do love you. E per il fine settimana due bellissime iniziative. Sabato 16 aprile ci invitano alla festa cena di chiusura della stagione Cibo, Parole, Musica e Arte, intitolata Ti mangerei tutta, il Fuoricampo Lesbian Group di Bologna, la Ragnatela, via San Donato 18/2. Alle ore 20:30 c'è una cena con un menù della seduzione. Alle ore 23 un reading di poesie erotiche, spettacolo di e con Monica Maggi. E alle ore 24 la festa con musica a cura di Joy. La cena è solo su prenotazione, invece per lo spettacolo e la festa si può entrare dalle ore 23. Se volete informazioni, i telefoni sono 339-1408010 o 338-73-22219. Potete anche scrivere, l'email è info@fuoricampo.net, potete visitare il website www.fuoricampo.net e se volete anche un fax 051-34-9969. Domenica invece, 17 aprile, a partire dalle ore 17, presso i locali dell'Aston Found di Roma, via dei Sabelli, si tiene ormai il tradizionalissimo Bubu LT, organizzato da Arci Lesbica la prima e la terza domenica di ogni mese. Mi dispiace che in questa comunicazione che devo dare io non c'è il sito web, perché altrimenti l'avrei detto anch'io, website, sembra un po' come West Side Story, è bravissima. Ora assisterete in diretta a un omicidio di una lesbica che ne uccide un'altra. Un lesbicidio. Si prosegua. Allora, il 23, il 24 e il 25 aprile 2005, e questa è una notizia che abbiamo già dato ma la ripetiamo perché, ripetita Juvent, giusto? Almeno a chi sta attento. Almeno a chi sta attento. Presso Villa Fiorelli, al Parco di Galceti a Firenze, si svolgerà un convegno organizzato appunto dall'Arci Lesbica di Firenze e dal Centro Studi GLTQ di Prato, intitolato Drag and Play Outlook, tendenze lesbiche 2005. Il convegno inizierà alle 14.30 di sabato 23 aprile e vedrà la presenza di una serie di sessioni parallele sul lesbismo performativo, ad essere molto interessante. Domenica 24 aprile alle 15.30 si avrà la partecipazione, tra le altre, di Beatrice Presiado e Simonetta Spinelli, che salutiamo. E sempre domenica 24 alle ore 19.30 si terrà Primo Piano di Elena Rossi con Angela Soldani. La quota di iscrizione al convegno, ve lo ricordiamo, per le non residenti è di 5 euro al giorno, 10 euro per i 3 giorni. Per le prenotazioni e le informazioni vi potete rivolgere a Cristina al 3280252786 oppure a Liana al 338-62-37-094. I'll get past the emptiness and let a little happiness back. Infine ricordiamo che si sta svolgendo un ciclo di 6 incontri sul tema Il dolore come fatto pubblico a Roma, presso la Casa Internazionale delle Donne in via della Lungara 19. È un percorso di lettura comune guidata proprio per esplorare il terreno del dolore e della sua cultura, ma anche per formulare domande a voce alta e capire se una più profonda comprensione e consapevolezza di questi temi possa poi consentire nuove forme di giustizia. Gli ultimi 3 incontri si svolgeranno giovedì 14 aprile alle ore 17.30, mercoledì 27 aprile alle ore 18.30, giovedì 12 maggio alle ore 18.30 e vedranno la partecipazione rispettivamente di Silvia Baraldini, Marimè Arià e Lidia Campagnano. E allora, noi siamo in dirittura d'arrivo, quindi fra brevissimo vi saluteremo, però vi ricordiamo naturalmente ancora una volta che sabato 30 aprile alle 19 il CLR, il CLI e quindi il CFS nella sua totalità organizzerà appunto una presentazione insieme a Monica Maggi, la presentazione del volume Cocktail d'amore, 700 e più modi di essere lesbica. E saranno ospiti Nicoletta Bonapace e Rosa Conti del gruppo Soggettività Lesbica della Libera Università delle Donne di Milano. Naturalmente ci sarà il CLR, ci saremo tutte quante noi al gran quindi, completo, al gran completo. Perciò siamo proprio arrivate alla fine, ringraziamo Caterina e diamo tanti baci, non diciamo dove naturalmente, però la ringraziamo. Qui la fantasia si può scatenare come vuole, vi potete, naturalmente vi potete sbrigliare e via, ci butteranno fuori prima o poi, questo è poco ma sicuro. Che dire, siamo proprio ai saluti. Monica, grazie per aver condiviso con noi questo bel percorso su Vita Virginia, speriamo che le nostre ascoltatrici si siano appassionate. La settimana prossima naturalmente questa trasmissione andrà in replica, quindi se l'avete persa stasera la potrete riascoltare martedì prossimo, perché martedì prossimo 19 aprile il coordinamento, insomma, salvo Rosina perché sennò tra un po' succede, insomma il nostro coordinamento replicherà questa trasmissione ineffabilmente. Speriamo che le parole di Vita e Virginia ci accompagnino con amore per tutta la nostra settimana fino alla prossima replica. Un grazie ancora enorme a Caterina, a Rosina e a tutti voi che ci avete ascoltato. Baci lesbici. Sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that.